Vincenzo. Sto cercando di centrare, ma sta oscillando perché l'ho acceso molto col pulsante. E ancora sta cercando di surriscaldare. Ok, perfetto, perfetto. Va bene, è una bomba nordica quell'apparato. Cosa lei l'ha acquistato? È quello del nome 48, tra cui mio cognato. Poi stasera quando lo sai che mi ha telefonato e non può venire, c'è sciopero a Centrovecchia ed è bloccato e non può venire, quindi si farà la prossima settimana. E vabbè, intanto glielo prendo perché non ti mettere problemi. Ho detto all'inizio quanto avete, ma fotti dimmi. Cioè, vabbè, ma un piacere bisogna farlo qualche volta, mi ha chiesto di fargli questa qui perché avevo solo questa urgenza, perché poi risultava che praticamente quando venivo qua come faceva a partire senza, perché partiva domenica sera, invece non ci viene, quindi se ne parlerà all'altro o venerdì se ci verrà o se prenderà qualche giorno di ferie. Insomma, questo è sposato, c'è anche una moglie ed è rimasto incastrato praticamente. Va bene, no, non ci sono problemi, dai, volta, tu hai fatto il corriere, chiaramente, no, che c'entra, un giorno se vorrà chiedere a lui ti cambierà, ma figurati, non sono quei danni, fregatene, vediamo un po' avanti, tanto. Bene, poi sorterà, è fatto lui, insomma, cambia, però poi dobbiamo andare a fare quella roba, capite? Ma non è che vedo la sua moglie lì? Sì, no, già fa. Va, ci sono anche lì le vicine di casa, sono tutti lì, capito? Non c'è problema, è una bella cosa, ecco, è una bella storia. E i bambini mi piacciono tanto, loro sono il futuro, sono quelli che ci sostituiranno, tu. Ovviamente. Adesso vediamo un po', forse ci faccio salto anch'io. Dipende da come mi gira, ecco. Sto aspettando che mi chiami ancora, pare che hanno chiamato quelli, quindi sarà per domani sicuramente. Adesso domani se cosa fanno, domenica si girano tutti le palle e siamo tutti assieme. Povera sopportazione. E domani probabilmente con questa festa la gente sarà tutta in giro, dai. Vedrai, perché ho visto la pubblicità, poi dottore, la Sassari, quel camion pubblicitario, sta facendo una cosa in grande. Sì, no, tanto sarà pure una bella cosa, non c'è ombra di dubbio, però io l'ho cancellato dal mio calendario, no? Cioè quel giorno non esiste. Esiste a Cagliari, a Sassari, poi dottore se Londra, che ne so. Il triangolo delle Bermuda, però lì non ci faccio niente, io non ci faccio nulla, è un popolino, guarda io lo vedo così, è un popolino che va lì a salamellare, basta, c'è una sorta di comare pestevole, il bar di Ottavio è dietro, già lo sai dove fanno tutti gli alberi, adesso ne sono tutti sbronzi, poi gli sbronzi cantano bandiera rossa. Avanti popolo! Bravo, cantano bandiera rossa, fanno proprio così. Come hanno sempre cantato, perché tu lo sai che questo è una città, ma lasciamo perdere, di sorci russi. Oh, siamo città, dal 99 siamo città, però tu considera che hai anche parenti, io ne conosco uno che è tesserato lì da quelle parti. Sì, ma non è quello grande, quello è, diciamo così, quello piccolo che non è un parlamentare. Il parlamentare a me mi interessa tanto, perché è quello che veramente conosce il suo lavoro, l'altro è un appassionato. Però non conoscono, è una brava persona. Sì, ma guarda che uno che si è di sinistra non ha detto che sia una brava persona, bravissima persona, è una persona molto, come si dice, generosa, grandissima, è una persona stupenda, ma per carità, un carattere loro, tutto quello che vuoi, niente da dire, però io ammiro anche chi nella professione ha realizzato, mi dispiace, tanto io, cioè le persone le considero anche per quello che sanno fare, se Antonio non sa fare l'antenna per me non è un radiatore, ti faccio un esempio, se uno mi dovesse dire ma sai io ho messo un manico di scopa e funziona come antenna, io non gli credo, Antonio. Vabbè, anche ci sentiamo dopo che mi sto cambiando. Fai, intanto parlo con Walter magari, vedo un po' se ci voglio fare il salto o meno. Ciao, sai. Va bene, buon vestiario, avanti Walter. Io pianto, ci sentiamo dopo, dai. Sì, ma no, vedi già, sì, molte volte queste situazioni, sì, creano un po' di disagio, sinceramente, però bisogna superarle. Io non è che sono totalmente contrario, sono contrario sotto quell'aspetto, che sono le situazioni che poi a un certo momento tu sei lì e alla fine tu incontri tanta gente che conosci e che sa perché c'è quello che beve, quello che non beve, però alla fine chi prevale è appunto l'invito al bar. Io sono contrario perché, ripeto, poi l'invito è molte volte fastidioso perché c'è insistenza nel voler per forza andare a bere qualche cosa. Io mi posso bere giustamente un vinello, me lo bevo, una birra, quello che capita, ma poi tutto finisce lì. L'altra birretta me la potrei bere dopo 4-5 ore, non lo posso fare ogni 10 minuti importando le persone, ma io credevo che bere una volta in passato vedi. Tutte queste storie qua, ecco, a me non vanno, ecco perché anch'io sono appunto scettico a dover diciamo frequentare queste manifestazioni proprio per questo motivo qua, e quindi desisto e non ci vado. Però molte volte non sono proprio a meno, perché c'è un parente che magari ha messo il chiosso lì e purtroppo si è costretto anche qualche volta, ma nel caso tuo non è perché tu non vuoi essere presente, perché non hai nessuna rappresentanza per cui frequentare, quindi desisti e fai bene. Sì, 140 Hz sotto, sto seguendo sempre una funivia. Boh, io non sto lì a fare polemica, a fare un sacco di polemiche, volta, a me non mi interessa. Io guarda, io sono così, no? Allora, quando sono con una persona che è di mio gradimento, parlo, chiacchiero, sì, faccio tutto quello che vuoi. Poi ognuno per la sua strada, non ci sono problemi, capito? Poi tratto di un amico, quello amico, basta, non c'è dubbio. Io sono fatto così, sono tassativo, non voglio niente per interesse, non voglio interessi in senso che vadano dalla mia parte o dalla parte degli altri. Si fa per, come si dice, tutto quello che si fa, no? Quando io esco, che sono amicizia, eccetera, che è lo stesso appunto parlo di compagnia, e in modo molto disinvolto, molto disinibito, non me ne frega niente. Gli altri voglio che siano così con me, non c'è da fare, come il discorso che abbiamo fatto ieri notte, ognuno è libero cittadino, fa quello che vuole, è un'Italia democratica, ecco, fa quello che vuole. Io ad esempio lì non ci vado domani, perché sono democratico, sono anticonformista, eccetera, eccetera. Quindi non ne voglio manco sapere, tutto lì, sto bene così, tranquillo, qua da lavoro, ma mi chiamano 2, 3, 4 ore, quello che rientro, faccio la giornata, busta la radio, vado al computer, faccio i lavori al computer, e questo è il modo di impostare la giornata. Poi, nulla, ancora facendo vedremo, il signore permettendo, avanti volta. Ma questa manifestazione dove viene rappresentata? Lì nel mercato, mi sembra, in quelle zone? Sì, più sotto del mercato coperto. C'è un piazzale, una sorta di parcheggio, sono tutti su. E dove fanno qualche concerto qualche volta, dei complessi e cose del genere? Esatto, poi sì. Sì, ho volte. Esatto, proprio lì. No, ma non c'è nulla, amico, ragazzi, ci sono delle tende bianche, tu vai lì, ci sono quattro puttanate e poi non sei vigilati. Naturalmente sempre che non piove, perché se fa una giornata piovosa domani mi sa che salta tutto. Ah, non mi interessa. Ma sai, me ne graffio un po'. Figurati, che danno. No, tu sei contento, almeno non hai problemi di dire ma mi vuole di presentimenti, eccetera, non ci vai, ciccia, vabbè, no, comunque a molta gente fa piacere. Giustamente, siccome tu riconosci eventualmente che la frequentazione di questo luogo è determinato a alcune correnti politiche, e pensa meglio tu di essere da questa situazione. No, non mi interessa, ci sono tutti, Sorciano adesso si unisce in piazza e digita stupidaggini, capito? Perché digita, oh, sono una macchina, no? Digita non sa quei fesserie. Ma ti sto dicendo che ho avuto a che vedere con degli stronzi della sinistra e non li voglio più sentire. Ma manco sentire, guarda. Non li voglio né sentire e né vedere. Tanto questa è l'ultima legislatura della sinistra. Questa volta ce l'hanno in culo. L'errore che fanno adesso i sinistroidi, ne parleremo. Eppure ho una convinzione già che questa volta, le sinistre sono convinte che molto probabilmente sarà schiacciata la destra. E io sono un po' scettico su questo, perché come campagna elettorale stanno facendo tanto, sia uno che l'altro, però ho la convinzione delle sinistre che vincano è scontata al 100%. Io non ne sono molto convinto di questa situazione. No, ma non mi interessa se vincono, hai capito? Io sono contento invece che vinca la sinistra, capito? Così se ne vanno a fanculo prima. Sì, infatti, cioè la storia della sinistra per vincere l'elezione è per uno scopo ben preciso, per far sì che voi, il sintetico un pochettino, per far sì che voi, Berlusconi alla fine, non abbia la gloria di dire, beh, ha iniziato a dire e fare tutte queste cose che avevo promesso e non le ha riuscite a realizzare, giustamente, perché le promesse che ha fatto in questi 5 anni non bastavano questi 5 anni per risolvere questo problema che c'era appunto di mucca fatta dalle sinistre precedenti in 30 anni e quindi loro vogliono prendersi questa gloria, praticamente lo diciamo noi, così lui non può realizzare e muore. Ecco, questo è l'intento delle sinistre nei confronti di quelle qua. Io sono l'unico rivoluzionario della radio, no? Assieme a qualcun altro che odia letteralmente, matematicamente la sinistra, la odiamo proprio, no? La odiamo per i principi malsani, per lo sfruttamento ingiusto che si prende nei confronti dei cittadini che vogliono fare del bene e loro le fanno del male. La sinistra ha il piano occupazionale per quelli che rubano, anche a destra, perché sono dei grandi ladroni, solitamente quelli che sono messi a sinistra, è inutile che dicano alla destra. Ma guarda che investe i ruoli comunali, e ti faccio l'esempio la SL, ecco, chi c'è dentro la SL? Guarda, noi ne parliamo, lasciamo, chiudiamo questo capitolo, perché si inizia a fare tribuna politica qua, guarda, me li mangio tutti. Sì, un marciume generale, chi occupa appunto questi enti, tutti quanti, tutti in generale, sono tutte persone di sinistra e praticamente hanno monopolizzato questa scuola, se vogliamo chiamarla, e sono loro a comandare. Praticamente lì, se uno ha un dovere, non viene ottenuto se lui sa che i suoi principi sono di quell'altra parte. E praticamente è gestita tutto qua, tutti questi enti qua sono gestiti tutti dalla sinistra, ed è un disastro. Poi ti sto dicendo che basta vedere negli uffici che cosa c'è, li hanno rotti i coglioni, ma proprio veramente, guarda, veramente. Io sono andato alla sinistra, ma non per chiedere solo favore, sono andato per fare che cosa. Allora, prima c'era al comando di questo paese una certa persona, molto prima di questo che c'era il rattocco, ed era un asino calzato e vestito, il secondo era un altro asino, questo sarà un ciucco. E non è che mi fa favore a uno e poi gli altri mi mandano tutti a fanculo, non li possono vedere, tanto va, lo sto dicendo io, ce ne sono 9.846 che sono contro e 5 a favore. Perché non c'è pluralismo, la sinistra ha solo quelle idee precise in questo senso. Lui sa benissimo, prima di farti piacere, fa un'indagine. Questo qua, il mio esempio, mi chiede in giro, che cosa sapete che cos'è? A secondo di che cosa deve dire sì, niente, negativo. Sì, e allora poi faremo così anche con lui, tanto molti sono scesi da cavallo, molti ne hanno buscato, e più di uno ci è andato di sotto, capito? E via, ma è più facile, guarda, che ti faccio un favore, una persona comune, una persona semplice, piuttosto che uno di questi pezzi di merda, ma è una persona semplice, pure un comunista, però bravo, se lo fanno quelli, capito? Come appena appena acquistano potere? Basta, non ci puoi più parlare. No, è un disastro. Guarda, quel paesino vicino a te, io lo frequento così, è uno stato comunque che pare che le correnti politiche si siano spostate. Questa volta mi sa che se ne andranno tutti quanti a destra lì al comune, almeno gli esseranno un pochettino, solo che c'è qualche personaggio che è un po' impettato ecco, in quella zona. Ci sono, come va? Io dico di questo, io sono sicuro che anche a sinistra ci sono delle brave persone, per carità. Non sto dicendo niente, ma in linea di massima il sistema che c'è è tutto un pasticcio, ognuno si alza dalla sua tasca a volte, non ho capito, il problema più grosso qual è? Che uno, quando è in un ospedale che ha un posto di lavoro, se lo tiene caro anche al costo di scotellare chi versa per le tasse, cosa cazzo gliene frega? Quello dice io guardo il mio, però noi guardiamo il nostro e c'è questo di problema, noi guardiamo il nostro e facciamo un gran baccano. Ma guarda, te lo che anche qualche medico c'è in queste condizioni qua, che a me mi sembra veramente indegno pensare che un medico abbia delle correnti politiche. Un medico dovrebbe essere neutrale, perché in un ospedale non devi guardare se il paziente tuo ha delle idee politiche su una parte o l'altra. Il medico è una persona che è un missionario, che ha sostenuto un esame psicologico per rappresentare quello che sta rappresentando, quindi deve avere un concetto mentale neutrale assolutamente. Però c'è questo, che ce n'è qualcuno che purtroppo è spinto, non tutti siamo uguali, ripeto, i caratteri di una persona a volte capita una capita, quindi vieni praticamente sottratto da questo. Sinceramente e dispiace. Ma guarda, ognuno ha la sua libera scelta, nella vita può fare quello che vuole, io per carità non mi sono mai permesso di dire tu devi fare questo, devi fare quello, non so, mi interessa. La vita ognuno si gestisce come vuole, a modino, ognuno fa quello che gli pare piace. Però sinceramente parlando trovo sconnesso il fatto che uno stipendiato vai e si compra le scarpe, vai e si prende 45 caffè, non risolve i problemi, in più fa abuso, e insomma ci sono tante cose, rubano dentro gli ospedali, rubano, il dottore lo trovi ingrappato con l'infermiera, e tutte queste cose qua, sono pagate da noi. Guarda, c'è una sorta di dipendenti di questi enti qua che sinceramente mi proverebbero da pensarlo soltanto. La mattina vanno, timbrano, infatti se c'erano tutti gli chiamati un tempo fa, poi si è tutto taciuto. Timbrano, appena timbrano poi vanno fuori a farsi la spesa, eccetera, eccetera. Ma dico io, ma lavorano nella mezzo moglie. Il problema è questo, se una donna non può lavorare perché ha questi problemi a casa, non può lavorare, significa non puoi lavorare, praticamente tu in un'azienda lavori un'ora anziché cinque, è veramente una cosa antipatica. Sì, un'ora, no, un minuto, non un'ora, tu stai esagerando, 60 minuti, è così una partita a pallone, no, non lavorano per niente. Ma stai scherzando, lavoro, cosa significa? Per uno che ha le selle? No, che sbagli. Poi si sbattono al muro i malati, infatti sta chiudendo. E chiuderanno gli enti, non ti preoccupare tu. Questo perché? Perché non fanno niente, perché sono un giorno a mandronare. Boh, questo è il bello. Ripeto, ci sono anche le persone che lavorano, non è detto che siamo tutti uguali, per carità, io questo voglio sottolineare a grosse linee. Non sono tutti uguali le persone, però per quello che ho visto mi basta. Tu vai agli ospedali, li vedi, sono delle teste di cazzo, e non ti sono di cazzo, ma io mi devo riservare il mio lavoro, ma va a fanculo che lì stai rubando dai soldi di chi versa, dagli imprenditori, stai offendo gli altri, ecco, questo succede, vedi, io non lo sopporto, cazzo, non lo sopporto, volta, non lo sopporto, guarda, non lo sopporto per niente, cioè, a peggio che non fanno nulla, poi purtroppo prendono in giro anche chi lavora, è così. Guarda, io sono stato in ortopedia qualche anno fa e ho assistito appunto a queste situazioni. Dei medici che lavorano tantissimo e di altri che se ne strabattono le scatole, però questi che se ne strabattano, essendoci da prima di questi, è chiaro che fanno così come un po' come il militaresco, no? L'anzianità fa grado. Diciamo che come lavoro contemporaneo chi lavora di più sono quelli giovani che siano fra le cure, giustamente, perché sono arrivati adesso, invece l'anziano si deve riposare, ma di tanto anziano poi non si parla, perché propriamente ho fatto un'indagine e questo lavativo aveva 45 anni e quegli altri invece ne avevano 30. L'anzianità vera e propria non ce ne era niente, perché per anziani si parla dai 65 anni in poi. Il discorso è questo, perché questi devono discriminare questi giovani a lavorare e poi qualche lavoro va male perché i giovani non hanno molta esperienza e su certi interventi è necessario per forza la persona di una certa età che ha più esperienza, eccetera. Ecco, questi errori qui non sarebbero successi se gli anziani fossero più presenti quando fanno certi tipi di interventi, e quindi questi errori di quello che cammina dopo lì in ospedale, quando esce, cammina dopo, perché non c'era l'occhio vigile di quell'anziano che ha più esperienza, e quindi il lavoro viene fatto così a capocchia. Ma guarda, non mi voglio ricordare della volta che è giunta l'ambulanza e è morto un parente per colpa che non c'era la bomba dell'ossigeno, che era finita la bomba dell'ossigeno. Bella quella, vero? Quella, ma secondo me cos'è? Quante volte è stata succedendo in questa situazione? Che manca, adesso si sono un po' addrezzati, hanno fatto una bella, infatti sono notti verso nello scuola civile, sulla parte destra, entrando al pronto soccorso, che non si può entrare, sulla parte destra c'è un bel equipaggiamento, prima mancavano queste cose, ma tenimi conto che non c'erano scorte, ma dove devo stare con due bombe di ossigeno in un ospedale come quello dove ci sono migliaia e migliaia di persone? Che è un disastro. Sì, ripeto, non ci sono problemi, non ci sono problemi. È tutta gente che non vuole fare niente, si dimenticano che ci manca l'ossigeno, si dimenticano anche che mancano le gambe, oppure si dimenticano la pinza dentro il paziente, però i sicchetti non si dimenticano, mica, tu li vedi, 27 puntuali, a modino, ben vestiti, sono usciti prima comprati le scarpe, quindi va, lasciamo perdere, povera Italia, io dico solo questo, continuate così, io dico di questo, a volte finché ne versiamo tutto va bene, il giorno che non ne versiamo si attaccano i coglioni. È un po' come la storia del canone Rai, che non io nel giornale, giorni fa, sono un trafiletto che mi è seccato per via, l'ho conservato, ce l'ho in macchina, un trafiletto che sta, questo personaggio che ha messo questo trafiletto, sta praticamente influendo a dire sulla gente di non pagare il canone, perché andiamo in scatole piene con le trasmissioni precarie che stanno trasmettendo, ma poi a un certo punto io mi ritrovo a pagare un canone quando gli stessi programmi che trasmette la RAI li trasmette uguali, precisi, identici, anzi anche migliori della RAI e la Mediaset. Quindi a un certo punto io mi ritrovo a vedere gli stessi programmi precisi su un altro emittente e io mi devo praticamente pagare un canone a questo emittente. Ma non trasmettete più, non ci interessa. Noi gli stessi programmi che trasmettete voi li vediamo su un'altra rete. Allora a che cosa saremmo riusciti a fare voi? Quando l'anno mi fanno pagare? Io, ma siccome c'è la legge, quindi è monopolio, perché è servizio pubblico delle mie balle, capito? Ma anche il discorso delle concessioni, se tu vai a vedere, no? Specialmente quella per la 27, ci sa che è banda cittadina, cosa vuoi? Che concessione vuoi? Cosa mi devo fare? Cosa ti devo fare? Lettere? Ma non rendi conto che noi ci dobbiamo praticamente, dobbiamo pagare un canone che non è poco, non è moltissimo, ma è una presa in giro, perché io mi dovrei pagare 93 euro di canone quando praticamente gli stessi programmi che vengono trasmessi su un'altra rete sono uguali a quelli, anzi addirittura migliori. Ma allora a questo punto mi chiedo, ma perché devo fare questo canone quando, allora, se loro vogliono che noi che paghi questo canone, allora lo mettono in condizione che la TV non riceva loro a un certo momento, incriminano qualche cosa, si inventano qualche cosa, ma io che colpa ne ho? Perché loro ti dicono, tu compri un televisore e devi pagare, ma scusa, ma il televisore non lo posso comprare per soprammobile, ma siccome non è previsto che uno si compri un televisore come soprammobile, che se è un compri il televisore è per vederlo. Quindi, però anche se non metti l'antenna su nel tetto, se non hai antenna, tu devi pagare lo stesso, nel momento in cui acquisti il televisore devi pagare. Cioè, ma dimmi tu se può essere una cosa giusta. Nel giornale c'è scritto che noi tutti quanti insieme ci dobbiamo decidere a non pagare nessuno, per vedere un po' se lo Stato denuncia tutta l'Italia. Oh, questi erano i miei principi, i miei sani principi, purtroppo è così. Sono mezzani, capito? Sono mezzani, da cittadino vogliono scogliarlo vivo. Il cittadino lo vogliono scogliare vivo, ti sto dicendo che vogliono soldato andare sempre, continui, passa e tutto, per far mettere il culo a un abusivista e un posto di lavoro, ecco cosa fanno. Ma certo, come fai tu con un infermiere che non lavora a dargli lo stipendio? Come fai con un comunale che non lavora a dargli lo stipendio? Sono dei grandi pezzi di merda. Guarda, c'è un abusivismo all'interno dei comuni, cominciando dei comuni che è la base praticamente. Nel comune ci sono sempre quelle persone che magari lavorano marito e moglie, ecco, questa è la cosa di parte, che è questa. Quando hanno introdotto i comunisti nel 1963 a far lavorare le donne nelle aziende, è stata una cosa gravissima. Io a mio parere mi specchio per le donne, tutto quello che vuoi, però io li amo, li voglio bene, tutto quello che vuoi, però quando hanno iniziato le donne a lavorare nelle aziende che hanno sostituito l'uomo, perché l'uomo sta lavando i piatti a casa, loro stanno lavorando, però cosa succede? Che quando lavorano tutti e due, perché già da prima ancora lavorano, succede che in casa necessita le cose primarie, quindi bisogna andare a fare la spesa, eccetera, ecco, allora si danno i turni, una volta ci va il maschietto, una volta ci va la femminuccia, però nel momento in cui manca uno, deve mancare uno per fare la spesa, o manca il maschio o manca la femmina, nell'azienda è assente quella persona e quindi nelle ore che avrebbe dovuto lavorare quelle ore lì non c'è, e la fa un altro, praticamente si fanno il culo gli altri per quella, e lui dice ne guarda che sto uscendomi mezz'ora, poi magari ci rimane 4-5 ore, mezz'ora, e mezz'ora c'è quello, e mezz'ora c'è l'altro, è tutto negativo. Ma vieni a dirlo a me, va, lasciamo perdere, no? Non tocchiamo quella pulsantiera lì, capito? Che ci sono delle grandi teste di cazzo a dondolo nella parte comunista, ma proprio teste di cazzo a dondolo che non viene bene a dirne, che sono solamente degli ignoranti, boh, col grissino è la cosa lì, è la mortadella, ma fanno il schifo, ma non me ne frega niente. Fanno abuso e basta nei posti di lavoro, fanno solo abuso. Non voglio manco sentire, figurati un po'. Non voglio sentire tanto che abusa nel posto di lavoro comunista. Non c'è da fare, guarda, io l'ho toccato con mano. Comunista, boh, basta, tu li vedi, fanno quello che cazzo vogliono dentro, girano quello che vogliono, ci mettono tutti i parenti dentro, e così. Bello però sarebbe se questa volta nuovamente perdesse questa maledetta sinistra e poi vediamo un pochettino se riesce quest'uomo a realizzare e a concludere, perché 5 anni in effetti erano un po' pochini per realizzare tutte quelle opere che lui promise, se ben ricordo. Ma io sono convinto che se ha la possibilità di raggiungere questo altro cinquennio e risolvere quei problemi, vedrai che molti si staranno zitti e rimpiangeranno tutto quanto quello che stanno facendo per rompere le balle a quella persona. Sì, lo so cosa ti dico, non vedo più forte l'opposizione questa volta, lo sai? Sì, beh, quello che temo, l'opposizione è molto forte sotto ogni aspetto, perché si sono accaniti in maniera che praticamente lo danno per vinto la vincita. No, dico, non mi ha capito, lo vedo più forte all'opposizione di Silvio questa volta, perché se li mangia e se lo dovesse perdere, oh, i poveri comunisti, allora sì che li chiudono veramente i posti di lavoro abusivi. È Ecco, appunto, molto probabilmente, hai detto una cosa giusta adesso, molto probabilmente sarebbe meglio che perdesse in maniera tale, lui sarebbe poi un'opposizione tale da non consentirgli a quelli di poter lavorare, in maniera di boicottarle, così almeno gli fa capire che loro non sono, che sono degli incapaci, ma tu immaginati questo boss, tu li senti, questo boss, questo disgraziato merdoso di non mi ricordo neanche come si chiama, quel pugliese, come cavolo si chiama, il parlamentare europeo. D'Alema? No, il contendente di Berlusconi. Tori? Tori, neanche il nome me l'avevo dimenticato, per quanto non posso vedere che lo odio a morte, a non incontrarlo faccia a faccia, gli, mamma mia, va bene. Allora, questo tu, quando lo senti parlare, e di un'antipatia, incomincia, noi dobbiamo essere tutti uniti, compatti. Quel modo di parlare che ha così a bassa voce sembrerebbe che è più convincente. In quel momento gli avrei conficcato un coltello in mezzo al cranio nella testa e lo aprirei come un'anguria. Guarda, non è il caso, il coltello se l'hanno già conficcato i comunisti nelle spalle. L'hanno fatto quando c'era Occhetto, lo fanno anche adesso. Non ne servono a niente. Guarda, i comunisti sono una fattazione di parole. Ti sto dicendo, tu ci avvicini, compagno, me lo fai un favore, ti fai un favore. Però poi, alla prima occasione ti sistema, non c'è dubbio. Ti sistema. Io purtroppo ho scelto la destra e rimane la destra, perché la destra dei veri e propri lavoratori, dell'Italia che produce, dell'Italia che versa nelle casse dello Stato, come palmo girato in osso, e per conto di questi quattro ladroni. Io ripeto, io ammiro chi lavora, chi fa il suo lavoro nei posti fissi, sono contentissimo, però che prendano in giro la gente, no, questo no, assolutamente, perché li stiamo parlando noi. Li stiamo parlando noi, li stiamo parlando tutta la classe, sì, appunto, cioè io mi chiedo come fa la gente a non capire che questi qui ci stanno boicottando, ci stanno mettendo in croce, non riescono a capirlo, gli interpreti rimangono fedelissimi, questo è il problema. Sì, perché c'è l'ignoranza della bandiera, poi parlano male, i comunisti sono linguacciuti, tu non li conosci bene. I comunisti sono una certa gente bugiarda e linguacciuta. Tu se ne vuoi uno bugiardo, prenditelo comunista. Guarda, sono bugiardi, falsi, incapaci, hanno tutti i difetti. Sì, beh, questo lo sapevo già, insomma, non sono ragazzino, già ne ho conosciuto. Ma la bugiardità lascia il tempo che trova, perché chi è un po' intelligente, quando lo guarda in faccia, si vede subito se sta dicendo una bugia, a parte quello. È la meschinità che loro vogliono vincere una elezione politica, per che cosa? Per avere questo potere maledetto che loro non gli compete di averlo, questo è il problema. Perché vuoi vincere questa perché vuoi essere lì tu comandante a comandare che cosa? A rubare più di quello che è stato rubato? Ma guarda, io non ho mai visto l'Italia misestratta come quando sono stati comunisti, hanno lasciato dei debiti pubblici allucinanti, la patata bollente al Berlusconi ha cercato di fare delle cose stupende, perché ha cercato di fare delle cose stupende, non c'è stato il tempo, purtroppo anche lui si è anticipato un po', questo è vero, però ti dico una cosa, guarda, come è vero Dio, ti dico una cosa, che se i comunisti salgono in carica, questa è l'ultima legislatura, questa è l'ultima volta che esiste il Partito Comunista, arriverà a sparire. Sì, praticamente viene debellato completamente. Sì, viene debellato perché questa volta loro hanno fatto 200 o 300 pagine, hanno scritto l'Apocalisse, quindi figurati un po' se non mantengono. Hanno scritto l'Apocalisse, magari lo mantengono, loro non possono mantenere nulla perché c'è un disastro all'interno della come si chiama? Aspetta, come si dice, non mi viene proprio, dell'economia, c'è un disastro dell'economia che è qualcosa di pazzesco. Quindi questo uomo attuale sta cercando di sanare pian pianino tutte queste cose qua, però purtroppo ha anticipato sinceramente troppo lui nel dire che okay, si poteva fare questo, poteva fare, perché evidentemente a mano che trascorrevano i mesi e qualche anno si è accorto che praticamente i danni erano ingentissimi, e questo è il problema, e quindi non ci si è fatto, non si è fatto in tempo a portarla a risolvere questa situazione. Il problema è se dovessero vincere loro per errore, che non sarà senz'altro per errore, vorrei vedere come andremo a finire, se in questo quinquennio ci riusciranno loro a resistere, se no andremo lì a elezioni dopo una ribellione di tutto il popolo italiano, di questi che non faranno nulla. Perché se mi chiedo, allora tu pensa, fino al 1975 non c'era nessuna tassa, eh? Ok, nessuna tassa, c'era soltanto l'IGE, il ballo, eccetera, quella tassina, non si pagavano fatture, non era fatturabile, eccetera, eccetera. Arrivano i comunisti, hanno cominciato a mettere l'IVA subito, l'hanno messa al 12%, dopo è passata al 14%, poi al 18%, poi al, insomma, praticamente negli anni ha aumentato tantissimo. Sono aumentate, hanno inventato le tasse, se le inventavano, tu immagina, la tassa delle insegne non esistevano, allora hanno messo la tassa delle insegne, e poi hanno messo la tassa dei libri, e poi la tassa della persona, praticamente tu sei tassato tu stesso, una persona camminando per strada tu sei tassato, hanno inventato tanto di quelle tasse che c'è da impazzire, ce n'è da fucilarle. Sì, ma guarda, è la tassa dell'IRAP, è quella lì poi non ne parliamo neanche, capito? Proprio la tassa delle rapine, come diceva qualcuno, no, ma per carità, no, è assurdo. Ma demorderanno, ma io sono sicuro che non campano molto, quei politici, la sinistra, se sale, non campa molto, ma dureranno 2 mesi, 3 mesi, non perché così, ma cosa fanno, ma cosa si credono di fare, ma cosa si credono di avere in mano, cioè il discorso mio è questo, perché sono così convinti? L'ignoranza del popolino, l'ignoranza del popolino, di quelli che hanno il posto di lavoro fisso, purtroppo è così, chi è a capo di un posto di lavoro fa casino quanto ne vuole, capito? Perché è vero che gli operai soccombono giorno dopo giorno con le tasse che pagano, però si è dimenticato di una cosa quel popolo lì, volpe, che se non versano quelli che stanno lavorando si attaccano ai coglioni, capito? Purtroppo è la verità, è la sacrosanta verità. Prima che era in campagna, ti faccio un esempio, non pagava le tasse, adesso le pagano anche quelli sono fatturati, hanno tutto in regola, vedi, e versano soldi nelle casse dello Stato, un esempio. Oggi un fabbro, un falegname, un elettricista, un impiantista, un meccanico, tutta gente che versa tasse, se continuano così, come hanno fatto i comunisti, aumentare le tasse, vogliono ancora aumentare le tasse, ma quello conviene che abbassa la salanda e se ne va. Io l'esempio non è, lo devo prendere dagli altri perché sono io preso in prima misura, ma se pensare, io ho lavorato 35 anni dentro un'attività e la pensione mia mi pare che ne avevo accennato di che cos'è, no? Ecco, anche quel discorso lì, perché uno che lavora alla SL deve prendere gli stessi soldi che prendeva quando lavorava, e uno come te o come me che lavora poi alla fine ce la finisce con 4 mesi di soldi, perché se abbiamo versato un tot non risulta tot, no, ti danno solo quello, perché quegli altri ne hanno fatto di più, sai, senza far niente, non è come paradossale. Cioè io volevo fare un discorso che è sanissimo a mio parere, e credo che poi tu condividerai. Allora, negli anni 60, all'inizio degli anni 60, c'era il problema del costruirsi da te un'attività commerciale, che era una cosa normale. Io appunto ho perso anche gli studi per questo, e niente, e quindi fummo tutti tranquilli che andando in un ambito commerciale potevamo guadagnare il tanto denaro. Ebbene, cominciamo, e si guadagnava sinceramente, quindi ci si allargava un po', si acquistava l'avvocato, si prendeva in affitto un altro magazzino a fianco, si riempiva, e quindi tu eri un investitore, praticamente tutto il denaro che tu facevi in più del guadagno che facevi milionalmente lo conservavi per investire altro materiale, per avere di più. Siamo arrivati al 1975, hanno cominciato ad arrivare tutte queste tasse, praticamente il commerciante da quel che aveva investito, che cosa investito? Investito ancora per niente, perché praticamente poi hanno cominciato le rottamazioni. Ma se una vettura mi prego praticamente l'avevamo già fatta. Se ho una vettura che mi fosse rivista, no, va buono, quando me lo devo vedere io quando questa vettura qua non funziona più e mi dà molto fastidio e la rottamo. No, Agnelli che cosa si è inventato? Il grande ambassado, ma non è morto, doveva morire prima di nascere, lui e tutta la sua generazione. Quando se ho una vettura nuova che mi fosse rivista, praticamente mi va bene, perché devo fare quella con l'altro? No, ti dava 4 milioni, hanno cominciato con questa rottamazione nel 90, mi dà 4 milioni, io praticamente sono condannato a spendere 20, perché dopo una macchina nuova mi dovevo spendere 20 milioni, ma gli altri 16 milioni a me chi me li dà? Perché parlo di lire, in quanto allora, quando ho circolato la prima rottamazione, era in lire, chi mi dà 16 milioni per pagare l'altra macchina quando siamo tutti conto allo slascio? Ecco, e poi questi ricambi dei ricambisti che si trovavano immagazzinati lì quando arrivano le vetture nuove, a chi li vendono i ricambi, questi poveracci che hanno tutti i ricambi nelle vetture, che c'è stata poi una protesta di tutti i ricambisti d'Italia che hanno parlato con dei parlamentari e che però hanno fatto una grande protesta, però non è stato risolto niente, e i magazzini sono rimasti pieni di questi materiali vecchi e ce li stanno buttando più in tenino, a chi lo vendo io uno sportello di 1124, 1100 euro di quegli anni, almeno la macchina. Le macchine nuove e attuali hanno tutti i ricambi nuovi, io non posso comprare ricambi nuovi se il magazzino mio è già pieno di altri ricambi di materiali vecchi, guarda un disastro, ce n'era da ucciderlo, e tutti i ricambi sono incassatissimi con questo fatto dell'automazione, ecco questo è il problema. Ho ragione io, compagno, trovo io Mario, si è fatto la legge per le sue tasche. Questo è il signor Agnelli che doveva essere ucciso prima di nascere. Ma meno male già è morto malamente, se ne va a fanculo lui e tutta la sua generazione, gli stai detto, incendiare si deve la Fiat, la Fiat deve prendere fuoco con tutti gli stabilimenti una per una, non frega niente, ma sapessi guarda quanto me ne sbatte, non me ne sbatte proprio nulla, tanto continuerò sempre a pensare quello che ho sempre pensato di giusto, perché i risultati li installando oggi come oggi, i risultati stanno venendo fuori, non è che si può dire che non sia vero, non è che non è vero, è verissimo cazzo, è verissimo, purtroppo è tutta una sorta di puttanate fatte dalla sinistra, puttanate, bandiera rossa che trionferà, ma trionfate i coglioni, ma cosa trionfano? Sono una massa di mondezza, capito, di gentaglia, cazzo, in cerca di far danno all'Italia, solo che non capisco una cosa, e questa è una spiegazione che mai nessuno mi ha dato. La sinistra non vuole il datore di lavoro, non vuole il capitalista, vuole una cosa comune, ma la cosa comune, se non c'è un datore di lavoro, per vuole, ecco, un'altra cosa, vuole l'impiegato, non vuole quello dello stipendiato. Ma lo stipendiato dove cazzo lo mettiamo se non c'è il datore di lavoro? Il problema è questo. Se l'ente pubblico non ci può essere se non c'è quello che mette i soldi nelle casse dello Stato. Come cazzo fa uno a dire queste cose? Proprio è demente la sinistra. Sono di una sono gentaglia proprio, io guarda questo discorso mi sta putrefando, come hai detto tu poc'anzi, sta putrefando in una maniera esagerata, quindi conviene guarda lasciare perdere già, è un disastro, non riusciamo a capire i piedi, noi possiamo pulpulare tutta la sera e non capire i piedi e stare sempre alla variante di sangue, purtroppo dobbiamo accettare come siamo. Però speriamo che appunto le cose non peggiorino, perché se peggiorano allora la situazione è veramente drammatica. Non so niente, si arrangiano. Non ho poi problema, non è un problema che vada niente a sfascio, però per me vanno bene tutti, stipendiati e non stipendiati, mi vanno bene tutti, tanto basta che mi fai, non siamo a posto. Però il fatto è che molte volte non pagano, ho capito volte. Tutto lì, ecco, più che altro il problema nostro dovrebbe essere quello, poi va a far culo, solo che l'economia è rovinata, ecco, che deve fare. Vedi, quando fai per un intervento si cerca sempre di tirare, perché le tasche degli italiani sono allo sfascio, sono basse, non riescono a tirarne i piedi. Perché non tirarne i piedi? Perché non c'è ancora quella possibilità di dare quell'aiutino ancora per vedere un po' se loro riusciranno a capire che sarà risolvibile questo problema. Non voglio che non risolva. Loro sanno sempre l'opposizione, loro stanno sempre cercando, tu dici A e loro dicono B, lui dice B e lui dicono C, insomma contrario a quello che dici tu, ma scusa, ma proponi, perché mi contrari? Mi contrari tu dici, io voglio fare questo, e lui dice no, ma proponi che cosa vuoi fare tu alla posto mio. Guarda, io ho visto Renato Sorno, e Renato Soru quando l'hanno messo su dicevano che era il Papa in Sardegna, invece non è, hanno sbagliato una cosa, no? È un papone, hanno sbagliato, si sta vedendo il disco di Petta Petta, si è già venduto, ecco cosa voleva fare, adesso ce l'ha messa nel groppone, non so cosa ti dico, gli sta bene, ai comunisti gli sta bene, tutto quello che gli succede gli sta bene. Perché loro non ci credono a queste cose, ci temono e vedono. Quando poi succedono dicono avevano ragione quei quattro fessi, capito? Io le predico queste cose, non ascoltano. Lo sapevo che Renato Soru era un grandissimo pezzo di cazzo. Lo sapevo, l'ho predicato, non mi hanno creduto, ecco il risultato. Ma tu adesso hai voluto dire la tua così. Soru non è una pezzo di cazzo, Soru è un deficiente, non so se tu lo noti. È quel classico, un personaggio che è indeciso, a volte fa quei movimenti, come chiudi gli occhi, eccetera, quel classico personaggio che ha qualche problema psicologico, non so se l'hai notato questo già. Sì, che è handicappato, già l'ho visto, si vede dal suo comportamento, da come si atteggia, che è handicappato, ed è di sinistra, vedi? I sinistratti dicevano che era il Papa in Sardegna, tra l'altro è diventato. Lui è una sorta qui, è diventato invece, secondo me, una sorta di Don Raffaele, no? Ecco qua. Adesso che parli con Cincerinella, il casino che gli sta succedendo, ma poco, io guarda, secondo me lo ammazzano quell'uomo. Se continua così, gli mettono fuoco, eh. No, poco mi metto, è un deficiente, ma tu te immagini a paragonare a Pili a Soru, ma io, ma come si fa? Ma guarda, siamo in una lotta veramente brutta, mi dice, io rido, mi sto guardando su, ma sto guardando per non piangere, perché è veramente una cosa drammatica. Questi personaggi che ne saltano fuori improvvisamente, ma come va quello? Lui voleva vedere Berlusconi, imprenditore, ma cosa stai facendo? Ma non è che se ne succede, ma come cavolo vuoi fare? Sì, sono handicappato, Soru è handicappato, nel vero perché senso della parola. Io, sinceramente parlando, se dovessi averlo di fronte, me lo guarderei dall'alto verso il basso e non gli direi proprio niente perché non trovo parole per poter definire quell'essere immondo, quella specie di lombrico imbrattato nella polvere, è un lombrico imbrattato nella polvere. Guarda, lui che ha annunciato, la fine del mondo, lui ha annunciato tutto e poi la fine del mondo la sta facendo lui, quello che non capisco. È che proprio lui, l'arcangelo Gabriele, perché è lui quello che si è trasformato in demonio, adesso fa un pendicolino a tutta la Sardegna, che stia attento, perché c'è gente, anche fatti alterai, che gli fanno il culo a elica a lui, e la smette di rompere i coglioni, capite, perché è un grande ignorante di prima categoria, gli è andata bene con Tiscali perché l'ha comprato per caso, sai quelle fortune che si hanno quando tu prendi la palla al balzo. Solo lì è stato intelligente, poi personalmente è un asino. Sì, bisogna vedere però se la sua intelligenza è stata protratta da lui o da qualche altro per aver intervenuto a fare quello che ha fatto. Ma diciamo che quello, vabbè, gli è capitato l'occasione e l'ha fatto, eccetera. Però quello che sta facendo in Sardegna, tipo quello di mandare via dalla NATO lì che sono tutte sull'astrico in Maddalena, tu già lo sai. Ecco, io vorrei sapere il danno che lui ha creato in quel paese con la chiesa lì della Maddalena, che era prevalentemente, praticamente vivente dai numerosi americani, che vivevano da tutta questa gente che stava lì. Ebbene, sono sull'astrico. Io vorrei sapere con quale criterio quest'uomo ha fatto faccio questa legge a mandare via questa gente, e l'ho potuto fare perché il suo piccolo potrino lo aveva e l'ho potuto fare. Io vorrei sapere come stanno facendo la Madonna sotto di Ferrato. Ah, non hai capito una cosa, loro pensavano che gli americani si graffiassero il culo, invece chi si graffia il culo sono proprio gli abitanti di quella città, tanto cosa gliene frega solo, solo lo stipendio ce l'ha, solo resta a cavallo per un bel po' di anni, dopodiché lo sai cosa fa quella gente lì, si riempie le tasche di soldi, si fanno un bel conto in banca, 2, 3, 4 miliardi, arrivano a quello, 5, 6, 7, quando hanno un bel capitale di rendita, rendita, e lo sai cosa ti dico, beh, pigliatela in culo. Sì, arrivato a questo punto è così. Così, lo sta facendo per quello scopo, nato solo, è il classico tipo che sta pensando alla sua tasca, ma che ti credi, ma che cosa se ne frega il nato solo e gli altri, ma nato solo è veramente egoista, da quello che dice, da quello che fa, è un personaggio immondo, nel vero potesse essere della parola, io non ho mai visto un parlamentare, un politico, come lo vuoi definire, una persona che entra a far parte di una comunità politica, se così si vuole chiamare, danneggiare così tanto gli operai, a fare in modo che addirittura la possibilità di non riprendere lo stipendio, ma ho seguito parecchie cose. No, ma guarda, sì, tanto sono assurdo. Ma guarda, per me è un deficiente, cioè il suo volto, se tu lo guardi bene, io qualche volta vedo lì, cioè, lo guardi bene, e ti rendi conto che il mio personaggio, un po' bisogno di ognuno di noi, ha una piccola sua esperienza psicologica, no? E riesce, anche se non abbiamo fatto dei grandi studi, non siamo dei letterati, però una piccola nostra esperienza, nei caratteri nostri, proprio in Sardegna, nei caratteri che da uno sull'altro, ci accorgiamo che tu lo guardi bene in faccia, te ne accorgi che gli manca qualcosa, lascia perdere l'indica perché potrebbe essere magari relativo, così, tra virgolette, però quando ti guardo, quel modo di parlare che ha, non ha gli occhi lucidi, proiettati su qualcosa che lui vorrebbe dire con concreto, rimane un po' titubante, così con la faccia, secondo me gli manca qualcosa e appunto è quella cosa lì che secondo me non è un cervello perfetto, ha un handicap in qualche modo. Sì, non c'è, lui è assente, capito? Come gira gli occhi, che ce li gira quasi in bianco, un pesce adesso. L'abbiamo visto che comportamento ha, ma non c'è dubbio, non c'è un breve dubbio, è monnezza, e dai, e sopportiamolo com'è. L'abbiamo detto noi, non io, voi, o quelli che sono comunisti, io non l'ho eletto. A me non mi piace, sinceramente non mi è mai piaciuto. E non mi piacerà mai, né come imprenditore né come politico, mi fa schifo. A me che mi piace è Silvio Berlusconi, un grande politico e un grande imprenditore. Ecco, quella sì che è una grande persona, ma è una grande persona perché ha tutti i meriti, ha dato posti di lavoro alla gente, ha cercato di mandare solo operaio, ma si è fatto nero l'altra volta con quelli di Confindustria, si è fatto nero. Guarda, adesso poi riprendo la Berlusconi, tu lo guardi solo, ha quello sguardo perso, come dire, innocuo, quando chiude gli occhi, quando fa un lampeggio degli occhi, li guardi la ripresa, la riapertura, vista rallentatore qualche volta, là, il classico problema di deficienza, io non capisco come abbiano fatto ad eleggere un uomo del genere, chiuso il discorso. Per quanto riguarda Berlusconi, è in chiusura, se voglio dire questo, se prende Berlusconi questa volta, là siamo rovinati, cosa vuol dire rovinati, con la R maiuscola. Se prende Berlusconi questa volta siamo forti, lo sai perché ti spiego, no? Perché la sinistra ne cade a picco, Berlusconi gli mette mano e gli fa rovinare prima del tempo. Non lo so se lui accetterà la... diciamo non la sua vita, eccetera, di fare una battaglia contro loro per riprendersi nuovamente questa pagnotta, non lo so, io sono convinto che sarà dura, la perdita sarà dura, non perderà di molto, perderà di qualche modo, però sarà una perdita che tu, Dio me ne scampierebbe. No, Dio che ne scampierebbe la sinistra, perché la sinistra non farà niente, ma ha capito che sono paroloni. La sinistra si mette a risfare, no? Sfascia tutto quanto quello che già esiste, come ha sempre fatto. Tanto loro sono classici tipi, no? Che parliamo, dopodiché arrivano al dunque perché non hanno nessuna possibilità, tu vedrai che cosa succede, ma ci divertiremo. Troverai più di un'attività chiusa, perché ne chiuderanno più di una, ma se non serve, lavoreremo tutti in nero, perché il bello è quello, lavorare tutti in nero, nelle casse dello Stato ci pisceremo dentro, quelli che sono in nero diventeranno più potenti al punto che ammazzeranno anche quello politico, e fanno bene. Ma speriamo che la sinistra nella fedeltà che perderà, che loro stiano facendo finta di perdere, di vincere, però se perdono è meglio, speriamo che questa perdita loro la stiano facendo, la perdita, cioè speriamo che stiano facendo finta di vincere per non vincere, perché poi loro non possono realizzare quello che devono realizzare, quindi meno male, speriamo che sia così. No. Non lo so, diciamo che c'è una gran confusione, non è che si capisce chiaramente che cosa stia succedendo, però è ingannevole quello che sta facendo la sinistra, ha sempre fatto inganni, io guarda, credi, ho conosciuto tanti comunisti, raro quello che ti capita generoso, raro, quello è da mettersi proprio, guarda, anche io il muro, gli altri sono tutti compagni, tu lavori o magno, tutti, ti fanno un favore e ne vogliono 40.000, ok? Io parlo a livello di, non come ce li facciamo noi, parlo a livello di proprio di, ma come si dice, dalla parte dell'ente comunale, ecco, da parte di un servizio alla SL, queste cose qui, non si può. Dovessero fare un favore che ti impiegano un figlio in posto di lavoro, sei morto, e allora ragazzi io vivi a vita, no, per carità, guarda, i comunisti li conosco troppo bene, i comunisti hanno sempre battagliato per la loro tanca e come tale stanno andando avanti. Questo lo sanno tutti per esperienza, che loro quando tu li fai un piacere poi rimangono tutti giorni bussando, le vogliono quello che vogliono. Avventura ci sono verificato degli spiegoli, andremo lontano qui a Sassari, che qualcheduno ha chiesto una tangente, sempre entrare a fare lo spazzino, io mi ricordo una decina di anni fa, per fare lo spazzino mi sono fatto chiesto al tipo che era nel capo della posta il posto vaccante, e gli ha chiesto 20 milioni di lire all'epoca, 10 anni fa, gli ha chiesto 20 milioni di lire per essere assunto trimestralmente, non fisso, per farlo lavorare eccetera eccetera lì. Quindi poi questo lui garantiva che ogni 3 mesi, diciamo 3 mesi, non 3 mesi all'anno, 3 mesi, non so, 3 mesi poi, prima e 3 mesi dopo, insomma nell'arco di un anno che va a lavorare 6 mesi. Ho dovuto anticipare quella bella sommetta a lui personalmente e tacere, non dire niente a nessuno, esattamente. Ecco, queste cose qua sono successe, c'è stato uno scandalino, poi non mi sono dovuto tacere perché il personaggio era un po' praticamente un po' non doveva saperlo nessuno, ecco, tutto qua. Sì, ho capito benissimo quello che stai dicendo. Ho capito benissimo, ma che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? È sempre così. Ma come dai, tanto inutile. Chiudiamo qui l'argomento, non serve a nulla fare tribuna politica. Non risolviamo niente. Tanto, come ho detto io, l'abusivismo è abusivismo. E poi, che poi non capisco. Come faccio nel posto di lavoro a stare fermi? Io sarei impazzito, cazzo. Sarei impazzito a stare fermi nel posto di lavoro, ma per carità. Vabbè. Bene, o ci sentiamo, l'operaio adesso, stacco. Sto aspettando una chiamata, ancora non si è visto, probabilmente non sono ancora rientrati. Come rientrano a casa, mi chiamano. Bene. Ci sentiamo, tante cose belle. Buon proseguimento di serata, adesso aspetto l'Antonio, magari già chiama la trabatta e ci riascoltiamo, ciao. Ok dai, ne approfitto anche io tanto, se non c'è niente, devo uscire, mi sistemo un pochettino e così via in quel posto là che tu sai. Purtroppo, ci risentiamo. Se sente Antonio, salutalo e poi ce la sentiamo stanotte soltanto se capita. Ok, ciao ciao nuovamente. Ciao, alla prossima, ciao.